sarà, perché la notte non ha tempo e per la strada soffia il vento. Sarà perché i ricordi ne ho nel cuore, case basse e tanto amore. E quando sono inquieto io mi perdo per le vie della città. Voilà. Perché se sono triste, vagabondo per le vie della città. Così mi va di guardare il mondo dalle nuvole. Così mi va questo sguardo nel rione, e passione e tentazione. E quando sono inquieto io mi perdo per le vie della città. Buona. Perché se sono triste, vagabondo per le vie della città. Gente della Garbatella, siamo tutti qua. Un respiro, un battito dentro una città. Lotti della Garbatella, quanta geometria. So dove Carlotta beva l'acqua. So perché quest'angolo di storia fa commuovere. Io so perché la strada tante voci ha visto nascere. E quando sono inquieto io mi perdo per le vie della città. Oh no. Perché se sono triste, vagabondo per le vie della città. Gente della Garbatella, siamo tutti qua. Un respiro, un battito dentro la città. Oh, lotti della Garbatella, quanta geometria. Non so dove Carlotta beva l'acqua. Figlio dei ricordi, figlio del passato, così figlio del quartiere dove sono nato. Fatta la memoria di tutte queste strade, sono dentro gli occhi di chi vede così che c'è un amore grande vicino a questa gente che ogni giorno lotta, non li ferma niente, così cade e si rialza, poi riparte. Tu la chiami vita, io la chiamo arte. E quando sono inquieto io mi perdo per le vie della città. Buono. Perché se sono triste, vagabondo per le vie della città. Oh, gente della Garbatella, siamo tutti qua. Un respiro, un battito dentro la città. Lotti della Garbatella, quanta geometria. So dove Carlotta beva l'acqua. Vado via,